24 mattino di Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Buongiorno, come già sapevate questa mattina, giorno di vigilia, ci siamo presi un po' più di tempo, non siamo andati in onda dalle 6:30 alle 7. Partiamo invece con la rassegna stampa. Una buona giornata da Simone Spezia e auguri in anticipo, poi ve li farò anche alla fine della trasmissione. Alle 8:15 sarà come sempre Paolo Mieli, ci scambieremo gli auguri anche con lui. E poi alle 8:35, vi ricordate che ieri in rassegna stampa, proprio a quest'ora, abbiamo aperto la trasmissione leggendovi quel caffè di Massimo Gramellini, nel quale si diceva, a fronte del grande successo del calendario di Mussolini, propongo modestamente un calendario De Gasperi a rappresentare quel mondo così diverso da quello attuale, anche dalla politica attuale. La vostra risposta è stata pazzesca, Decine di persone ci hanno scritto e mi hanno scritto dicendo sì, mi prenoto, lo voglio anch'io. Qualcuno ha detto sono disposto a mettere 1.000 euro. Un ascoltatore mi ha scritto su Facebook dicendo io sono uno stampatore, sono disposto a stamparlo. Ci ha scritto anche, come vi raccontavo, un editore, Florindo Rubettino, che poi sarà da noi, che ha l'edizione di Rubettino, hanno fatto uscire molte cose su De Gasperi, dicendo sì, sono a disposizione, mi piace, è una bellissima operazione, sono a disposizione. Allora c'è qualcosa di fondo su tutto dietro tutto questo, che non è solamente la figura di De Gasperi e i racconti che poi ieri ne ha rappresentato Gramellini. Questo qualcosa di fondo è forse un filo di nostalgia, chissà se è un filo di nostalgia per quell'epoca o se è un filo di nostalgia per quella politica. Però poi dobbiamo chiederci se abbiamo il filo di nostalgia per la politica per bene, tranquilla, non urlata, perché poi non la votiamo? Aperta la discussione, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS e messaggi su WhatsApp. La rassegna stampa dunque alle 7:20 minuti di questo giovedì 24 dicembre, con Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti in assistenza e in assistenza e redazione come sempre Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, Alessandro Marcotulli e i nostri autori, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, con i giornali che vanno un po' in ordine sparso oggi. Alcuni si dedicano al vaccino e forse il titolo più forte è quello del Messaggero, perché ci parla di uno scontro tra la Regione Lazio, che vi ricordo è governata dal segretario del Partito Democratico Zingaretti, e il Ministero della Salute proprio sui vaccini. Dosi in ritardo, scontro Lazio-Ministero. L'assessore regionale dice partenza simbolica e campagna di massa a rischio. Lite anche sulla scelta della prima persona da immunizzare, lo Spallanzani. Pensate un po' come si è messi. Il Fatto Quotidiano intervista all'ex procuratore di Torino Guariniello, che molto si è occupato di salute e lavoro. Chi non si vaccina rischia il licenziamento, dice Guariniello, che lo dice la legge sulla sicurezza. Libero, un ospedale su quattro non ci può vaccinare, riprendendo i dati che tra l'altro erano stati forniti ieri dal Sole 24 Ore nel pezzo di Marzio Bartoloni. In 72 delle 294 strutture dove si effettueranno le iniezioni mancano i superfrigoriferi Salva Siero e il personale è scarso in molte regioni. Il Corriere della Sera apre sulla scuola, che riapre solo a metà, si passa per le superiori dal 7 gennaio in didattica a distanza al 50%, anche su questo arriveremo tra poco. Il Quotidiano Nazionale si sofferma su questo strano Natale, le regole a tavola. All'interno c'è anche un'intervista alla ministra Lamorgese, che non ci parla delle regole a tavola, ci parla delle regole sul territorio, ma vi darò conto anche dell'intervista alla Lamorgese, oltre che di queste regole a tavola, perché ho trovato delle cose veramente curiose, devo dire. La Stampa apre con un'intervista al ministro agli affari regionali Boccia, il quale dice se c'è la crisi si andrà a votare, esprimendo così la posizione del Partito Democratico. Il giornale titola invece sugli italiani bloccati in Gran Bretagna. Di Maio incapace, con nazionali abbandonati. Tanti ragazzi bloccati in aeroporto a Londra per Natale, crisi infinita. Ora i grillini contro Conte sulla TAV, l'alta velocità. Avvenire titola con un "è Natale, siamo salvi". Il Sole 24 Ore sul debito 2021, servono almeno 367 miliardi. La Repubblica ci dice questo. Io esprimo, con tutto il rispetto per i colleghi del quotidiano, esprimo un filo di perplessità, perché il titolo è "Covid, dalla variante inglese un pericolo per i bambini". E però in molti quotidiani, e ci arriveremo, si apprende che questa benedetta variante inglese, come tutti ipotizzavamo, è in questo paese probabilmente da settembre. Quindi questo è. E infine cosa abbiamo ancora? Abbiamo La Verità, che ci parla dell'inchiesta che toglie il velo ai PM, un'inchiesta che ha a che fare con, è una cosa complicatissima, vedrò se riuscirò a riassumervela, con la quale l'ex PM Stefano Fava fece un esposto nei confronti dell'allora procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, e che sarebbe stata tenuta sotto traccia dal CSM, forse, sostiene La Verità, su indicazione addirittura della Presidenza della Repubblica. Su questa vicenda, tra l'altro, c'è anche un episodio piuttosto imbarazzante che riguarderebbe il Pier Camillo Davigo. Il Manifesto titola sul milleproroghe, l'allarme trivelle, ma l'apertura è sul fatto che c'è l'accordo in arrivo su Brexit. In asso nella manica è il titolo del Manifesto. Iniziamo, come sempre, da qualcosa di diverso e, come spesso accade in questo periodo, iniziamo dalla giustizia. Perché il quotidiano Libero, in una paginata che è pagina 15, nella quale ci riporta anche della vicenda, ci riporta anche la notizia, ed è il pezzo principale di Brunella Bollòli, ci riporta la notizia di Antonio Tizzani, 73 anni, che è stato trattato da assassino, così scrive Libero, per 4 anni ed è stato assolto. Per i giudici, il 73enne non ha ucciso la moglie Gianna, trovata sgozzata in casa, era l'unico indagato. Ma la storia che mi ha incuriosito di più, in realtà, è di taglio basso. Ed è un racconto che arriva da Napoli. È un uomo nuovo, ma va in carcere per reati commessi 21 anni fa. 21 anni. Si può entrare in carcere per scontare 11 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione per reati commessi 21 anni fa? In Italia accade anche questo. Lo sa bene Giuseppe, un 47enne di Napoli, che sabato scorso ha varcato il portone d'ingresso di Poggio Reale e per il quale l'avvocato difensore Sergio Pisani chiede la grazia al Presidente della Repubblica. La richiesta del legale arriva perché, dice, la cella ora per il suo assistito rappresenta il fallimento totale dell'attuale sistema giudiziario. Che senso ha, dopo 21 anni da un reato, far scontare 11 anni di reclusione a un soggetto che si è totalmente riabilitato, lavorando onestamente e mettendo su famiglia? Giuseppe, che gli amici chiamano Pippo, non rinnega il suo passato. È vero che nel 99 faceva parte di un gruppo malavitoso di stanza nei quartieri spagnoli di Napoli, nella zona di Sant'Anna a Palazzo, i cui componenti sono tutti finiti ammazzati. Una storiaccia da cui lui è riuscito a salvarsi perché a un certo punto è stato in grado di cambiare completamente strada, guadagnandosi un lavoro onesto e costruendosi una famiglia con la donna che lo ama e 3 figli. Adesso però, a distanza di decenni, a causa di una giustizia lumaca, è arrivato l'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale del Capoluogo Partenopeo e attuato dalla squadra mobile per reati legati allo spaccio di droga e all'associazione mafiosa. E lui, che pure ha smesso con quella vita da un pezzo, ha dovuto entrare in prigione a 21 anni di distanza dai fatti. Un uomo nuovo che però entra in prigione. Tutto questo per la lentezza della giustizia e, appunto, del sistema, evidentemente, di esecuzione delle pene. A proposito di giustizia, ve la cito molto rapidamente quella vicenda, perché, come già dicevamo ieri con Paolo Mieli alle 8:15, guardate che la vicenda, la guerra che si sta combattendo, che si è combattuta all'interno della magistratura all'ombra della scoperta delle chat di Luca Palamara, non è finita e le questioni sono ancora tutte aperte. E quindi arrivano dei segnali che qualcosa si sta muovendo. Ieri lo abbiamo raccontato, si è spezzata una delle correnti più importanti della magistratura democratica. C'è questa vicenda della quale ci racconta la verità e c'è quello che scrive il giornale, che getta un'ombra su quello che è considerato, che da molti è considerato un magistrato modello, ossia Pier Camillo Davigo. Cosa succede? I non ricordo che possono inguaiare Davigo, ne scrive Luca Fazzo. E l'oggetto è ancora una volta questo esposto dell'ex pubblico ministero romano Stefano Fava, il quale aveva dei sospetti sui legami familiari e di affari del capo della procura di Roma Pignatone. Fava presenta un esposto per questo, ve la riassumo molto brevemente. Ne parla a cena con Piercamillo Davigo e Sebastiano Ardita, che fanno parte della stessa corrente, e Piercamillo Davigo, chiamato a rispondere da un altro magistrato, dalla magistratura di Perugia, su questa cosa, inizia a dire: no, non ricordo di questo esposto, non sapevo niente, Fava aveva parlato di lamenti generici, mentre Ardita invece conferma tutto. Ve lo segnalo perché è un elemento che si va a comporre in tutta, no, in tutta questa vicenda della magistratura, da tenere presente. Teniamo da parte e mettiamo là e vedremo come evolverà. La questione cenone, non cenone di Natale mi ha fatto quasi sorridere questo pezzo, ed è volutamente fatto così, è di Viviana Ponchia sul Quotidiano Nazionale a pagina 3, perché poi c'è tutto uno schemino, una ricostruzione in 3D che sembra, avete presente quelle ricostruzioni in 3D che si fanno degli omicidi, il luogo dell'omicidio, però è come deve essere organizzato il cenone e come si deve andare a messa. E dunque, l'orientamento è quello di limitare a 6/8 il numero di commensali, vietato organizzare feste con membri estranei alla famiglia, e questo lo sapevamo. Ingresso: togliersi le scarpe e indossare ciabatte usa e getta. No, vabbè, ecco, è così, ragazzi. Quest'anno è così. Scusate, ci sorrido, ma magari sono delle regole giuste, io non mi permetto. Scambio dei regali rapido, magari con un tavolo comune per i pacchi. Cambiare l'aria ogni mezz'ora, qualsiasi sia il clima, evidentemente. I bambini evitare di farli avvicinare ai grandi, cuocere tutti i cibi, attenzione all'impiattamento e non assaggiare cucinando. E quindi, se vi trovate una porcata nel piatto, sappiate che è perché non l'ho aggiustata di sale, molto semplicemente. Va bene, a parte questo, a parte il come organizzare le cene, come si organizzano le messe, ovviamente è vietato lo scambio del segno della pace, è vietato fare la comunione prendendo l'ostia in mano, vietato sostare fuori dal sagrato, bisogna sedersi alternati sulle panche, acqua santiera senza acqua benedetta, igienizzazione delle mani all'ingresso. E poi c'è l'intervista alla ministra Lamorgese, e qua entriamo un po' nelle cose un po' più toste, ossia il fatto che è presumibile, come già avevamo capito, che quantomeno le regole che riguardano, che hanno a che fare con la suddivisione delle regioni in zone gialle, arancioni e rosse, permarranno anche dopo, e anche piuttosto a lungo, a dir la verità. Siamo all'apice di una pandemia, dice, intervistata da Alessandro Farrugia, la ministra Lamorgese, per di più con un nuovo ceppo in circolazione, ed è dunque prevedibile che per molti mesi ancora non sarà possibile né consigliabile abbassare la guardia. Un diverso regime dei divieti e delle limitazioni tra regioni potrebbe accompagnarci per alcuni mesi ancora. E poi si parla di come avverranno i controlli, no? Il Presidente del Consiglio ha detto che non ci saranno controlli sulle case private. Gli chiede il giornalista, io aggiungo, ci mancherebbe altro. Ma le feste, ad esempio, sono vietate. Cosa succede se un vicino chiama la polizia? Per tutelare gli anziani più deboli dobbiamo comprendere fino in fondo che soltanto un senso di responsabilità diffuso potrà evitare l'esplosione dei contagi dopo le feste. Le forze di polizia effettueranno i controlli, come sempre, con professionalità ed equilibrio, ma verranno comunque sanzionati con la massima severità coloro che adotteranno comportamenti disinvolti mettendo a rischio la salute degli altri. E così la ministra Lamorgese non risponde. Pausa. We'll be right back. 4 mattino. Sì, buongiorno, Tony da Verone. Ma vuoi mettere la sinistra di quei tempi con quella di adesso? Va, lascia perdere. Allora c'era più rispetto, era tutta un'altra cosa. Allora c'erano i politici. Adesso ci sono i devastatori del paese, del popolo. Questo è il ragionamento da fare. Quindi adesso, per forza, viva la Lega e viva la destra. Che devi dire? Non hai risultati dalla sinistra, hai solo sfavori su tutto. Hanno devastato il paese. Ciao. Non li votiamo perché per tanti, non è il mio caso, è un posto di lavoro votare a sinistra. È una garanzia di non fare nulla e portare uno stipendio intero a casa. Non so esattamente cosa voglia dire quest'ultimo messaggio. Un altro ascoltatore dice: sono corso a prenotare calendari di Mussolini contro te e tutti i radical chic di sinistra. Ma De Gasperi era della DC, ragazzi, eh? Io non so come spiegarvela questa cosa, non so come dirvela questa cosa. Era di destra, di centrodestra, quindi sta parlando semplicemente di destra moderata. Non so che cosa abbiate capito e cosa abbiate del... chiaro di questa vicenda. Vabbè, comunque torneremo a parlarne. 800 24 00 24, però vi vorrei un po' più sul tema di questa nostalgia, se c'è effettivamente, se c'è o non c'è, no? Se invece è meglio la politica di adesso, se questo ragionamento sulla nostalgia è semplicemente un ragionamento, mettiamola giù, brutale, da vecchi, oppure è veramente qualcosa che ci manca, una sorta di dialogo civile, di visione sul futuro, no? O è la nostalgia di un'epoca nella quale questo paese doveva ancora costruire molto, se non tutto. Allora, 800 24 00 24 a partire dalle 8 e poi 349 238 6666 con i vostri WhatsApp audio e le vostre voci, come capito, una puntata un po' diversa proprio per la vigilia di Natale. Leggo i titoli ovunque sul... sembra un film degli zombie, il virus mutato. La mutazione, i rischi della mutazione, era già qua da settembre. Lo troviamo tra le righe sui giornali, perché dato che tutti quanti, un po' tutti noi mezzi di informazione, diciamocelo, abbiamo fatto titoloni su questo virus mutato per 3 giorni, la chiusura degli aeroporti, una cosa e l'altra, poi apprendiamo dal caso singolo, quello delle Marche, quello di Loreto, ma in realtà con la percezione che le cose fossero più diffuse, che il virus, la versione mutata del virus era qua già da settembre. Un'altra ipotesi sta prendendo forza, scrive il Messaggero a pagina 5. La variante inglese era già in Italia da qualche mese. E forse la definiamo in quel modo, con la caratterizzazione geografica, solo perché i britannici sono stati i primi a individuarla. Dopo l'agente dei servizi trovata infetta al cielo di Roma con il virus che presentava la mutazione, ieri è emerso un altro caso nelle Marche, appunto. Un uomo di Loreto, Ancona, è stato contagiato dalla variante. Aveva un forte raffreddore. Si è scoperto che era positivo, ma con la variante inglese. Lo stesso è successo per 2 familiari. L'uomo non ha avuto però contatti con il Regno Unito. Dunque è possibile che la circolazione iniziata a settembre abbia da tempo oltrepassato la frontiera italiana. Anche facilmente prevedibile, visto che almeno fino al 31 di questo mese saranno in Europa e quindi i confini erano relativamente aperti. Come fronteggiare tutto questo? Beh, il vaccino... E però le polemiche, le questioni che si addensano intorno alla vicenda delle primule, i gazebo pensati e progettati da Stefano Boeri e voluti dal commissario Arcuri per la campagna vaccinale, proseguono. Ne dà conto bene Camilla Conti sulla Verità a pagina 13, dà conto quantomeno dei dubbi che circondano tutta questa vicenda. Più che la narrazione, dice, servono organizzazione, efficienza e rapidità, senza sperpero di denaro pubblico. Per ora sappiamo che i padiglioni verranno disseminati in 1500 piazze italiane, davanti agli ospedali e anche nei campi sportivi. Saranno realizzati con materiale riciclabile, smontabile e alimentati da pannelli solari. Il più grande dei moduli prevede 300 metri quadri con 5 persone che si possono vaccinare contemporaneamente. Ma quanto costeranno le primule? E qui il quadro comincia a farsi più fumoso. Arcuri ha detto nei giorni scorsi che sta elaborando un budget e la scheda del costo di realizzazione delle strutture. Pensiamo che ci saranno molte persone e molte aziende che svolgeranno questa funzione pro bono, come ha fatto l'architetto Boeri. Lo stesso Boeri, intervistato dal Foglio, ha spiegato che i costi dipenderanno molto dalle dimensioni. A pesare saranno soprattutto gli impianti. Al netto delle dichiarazioni, sul sito del governo non c'è ancora traccia di bando o ordinanza sulle primule. Quindi non si sa quando saranno allestiti i padiglioni, né come la loro attività verrà coordinata con quella di cliniche, ospedali e altre strutture che somministreranno il vaccino. Qual è il punto, poi? È che non c'è la in una piazza non c'è la corrente elettrica, non c'è il gas, il riscaldamento per l'inverno e gli impianti di raffreddamento per l'estate, l'acqua corrente e i bagni. E quindi forse, dice, scrive qua Camilla Conti, citando anche questo osservatorio interdisciplinare sul trasporto alimenti e farmaci, sarebbe il caso di fare come i tedeschi e pensare alle palestre e ai palazzetti dello sport, che sono abbastanza diffusi tra l'altro un po' in tutto il territorio. La verità che se la prende anche a pagina 11 contro il governo, con il governo, per il fatto che nel piano per mesi ci siamo sentiti dire, non col governo, anche con i virologi, con chi andava in televisione, perché per mesi ci siamo sentiti dire che le mascherine era il caso, non era il caso, soprattutto all'inizio della pandemia, ah no, le devono mettere solo quelli che sono contagiati, ma no, forse anche coloro che non sono contagiati e che non, o che non hanno sintomi. Ebbene, apprendiamo che nel piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, quello, lo ricordate, è quello sul quale sono scattate le polemiche, c'è anche un capitolo dedicato alle misure che le persone e le comunità possono adottare per rallentare la diffusione della malattia. Nel caso di un grado di severità alto, oltre all'igiene delle mani, alla pulizia di superfici e oggetti, all'isolamento dei soggetti malati, alle raccomandazioni sui viaggi, viene disposto anche l'utilizzo di mascherine per la popolazione. E quindi bastava leggere quel piano pandemico che, per quanto vecchio, comunque c'era. C'è tutta una questione politica aperta, come sapete, qua non si riesce bene a capire se questa verifica di governo, se questo scontro tra Conte e Renzi è finito oppure no. Fatto sta che abbiamo l'intervista a Francesco Boccia, ministro degli affari regionali, il quale dice che sulla sanità siamo un paese modello e non faremo governi OGM, così li definisce, quindi non c'è alternativa a questa maggioranza se non il voto. C'è il retroscena di Massimo Franco che racconta, pare apparentemente, sembra che qualche frase dal Quirinale Massimo Franco l'abbia colta, perché racconta innanzitutto il fatto che Matteo Renzi ha incontrato Sergio Mattarella, che il capo dello Stato non sperava di distogliere Renzi dai suoi obiettivi bellicosi nei confronti del Premier, voleva solo cercare di capire le vere intenzioni del suo interlocutore, e che è un esercizio non facile. E che al Quirinale cominciano a temere che la situazione sia peggiorata al punto da non lasciar prevedere un recupero facile tra Italia Viva e il governo. Troppa incomprensione, troppi passi falsi da parte di Renzi, ma anche di Conte. Si parla di errori da matita blu del Premier, che fino a qualche settimana fa liquidava la voglia di rimpasto di Renzi, ma anche di Di Maio, come ambizioni personali. Quindi Italia Viva si è potuta infilare in una somma di malumori trasversali, come già dicevamo nei giorni scorsi. Insomma, Renzi non è che se l'è inventata, tutta lui. Giovanna Vitale ci porta invece al riassunto di quello che poi ieri il Presidente del Consiglio Conte ha detto a Porta, in sostanza dicendo che sia sui servizi segreti sia sul fondo salva stati la verifica si sta complicando, ci dice Giovanna Vitale. E Conte che dice: su alcuni temi decido io perché sono il Presidente del Consiglio. Se volete un po' di dettagli, poi ci arriveremo tra un attimo, sul ritorno a scuola c'è un ottimo pezzo di Eugenio Bruno sul Sole 24 Ore, tra un attimo ci arriveremo perché poi avremo il nostro direttore di Radio 24, l'agenzia di stampa Radio Core e del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, come sempre, come tutti i giovedì, anche in questo giorno di vigilia. C'è il pezzo di Eugenio Bruno a pagina 8 del Sole 24 Ore, intanto me ne do conto, che ci dice questo: che è previsto il ritorno in classe al 50% fino al 14 gennaio e poi al 75%, anche se in realtà non c'è non si dice proprio questo. Si dice che poi il 14 gennaio arriverà un altro decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E la cosa che un po' più mi preoccupa in questo pezzo di Eugenio Bruno che leggo è questo. A loro volta le regioni, stando alle stesse linee guida, elaboreranno un piano operativo di screening dell'intera comunità scolastica e faranno in modo che una volta individuato un caso di contagio nelle scuole si proceda subito a individuare i contatti e sottoporli a test rapidi. Questo fatto che le regioni devono elaborare un piano operativo... un pochino preoccupa. Intanto sappiamo dal Messaggero a pagina 58 in cronaca di Roma che mancano 3.000 professori e quindi c'è un'incognita anche sulle lezioni. Una pausa. Ed eccoci qua col nostro direttore di Radio 24, l'agenzia di stampa Radio Core, ovviamente il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, anche il 24 di dicembre, eccoci qua, buongiorno e buon giovedì, come stai? Bene? Non volevo perdere l'occasione per augurare a tutti buon Natale. Ottimo, ottimo. Allora Fabio, io inizierei da Brexit, perché pare che ci siamo ad un passo, dopo tante preoccupazioni, il rischio di un mancato accordo in una situazione resa confusa anche da questa famosa variante inglese che ha portato alla chiusura dei confini, ebbene pare che l'Europa ci sia e sia arrivata ad un accordo, no? Verrebbe da commentare meglio tardi che mai, anche se la verità è che l'accordo dobbiamo ancora vederlo, probabilmente ci sarà, certo c'è stata una manfrina durata molti mesi. L'impressione è che anche il premier britannico, forse è andato a scuola dalla politica italiana. Pensate se tutto questo tira e molla l'avessimo fatto noi. Sarebbe stata un'autoflagellazione di massa di tutti gli italiani e di tutti i media italiani. Francamente non è stato un bel vedere. Paiono idee, quelle degli inglesi, molto molto confuse, e lasciatemi spendere una parola per quei camionisti che pagano sulla loro pelle questa situazione. Sono migliaia in coda, senza mangiare, scarseggia anche l'acqua, non hanno i servizi igienici, ma insomma non se ne può più, pagano loro il prezzo di una politica imbarazzante. Sì. È un problema di leadership e non c'è soltanto in Italia, certamente c'è anche nel Regno Unito. Sì, tra l'altro abbiamo avuto ospiti appunto un rappresentante dei camionisti e gli autotrasportatori proprio ieri alle 6.45 per farci raccontare un po' la situazione. Sul fronte della Brexit vi segnalo anche il pezzo ovviamente di Beda Romano che sul Sole 24 Ore a pagina 9 mette in evidenza quelli che sono un po' gli snodi, no? Gli snodi della trattativa, la parità di condizioni con Londra tenuta a rispettare le regole europee, le garanzie ai pescatori in acque britanniche, il ruolo della Corte Europea nelle controversie, l'evitare un confine fisico tra le due Irlande, sono i grandi nodi della trattativa che a quanto pare sono vicini ad essere sciolti. Vi voglio segnalare anche il commento di oggi di Adriana Cerretelli che parla di uno shock, questo della Brexit, che può rendere migliore l'Europa. Veniamo Fabio proprio alle nostre cose, le nostre cose che ci portano direi soprattutto sulla manovra che va alla fiducia della Camera, una manovra da 40 miliardi. Una manovra nella quale ci sono degli elementi positivi, ovviamente, e anche una certa, ancora una volta, una pioggia di bonus, come prevedibile, quasi a rimandare la programmazione al Recovery Fund. Che Dio ci benedica, e chiedo scusa per l'incomodo, poverino, c'è altro cui pensare. Però, francamente, miliardi come se piovesse, hai detto bene. Ma alla fine questi soldi dove andremo a prenderli? Perché in cassa ce ne sono molto pochi e il problema c'è, e guardate che sarà un problema che esploderà nei prossimi mesi. Ricordatevi queste mie parole, miliardi come se piovesse, ma da qualche parte bisognerà andarli a prendere, visto che ce ne sono molto pochi in casa. Vabbè, questo è il vero problema. A debito del resto, no Fabio? L'apertura del 24 è dedicata esattamente al debito, al fatto che servono esattamente 367 miliardi tra scadenze e fabbisogno, a cui si affianca l'operatività a breve termine, e quindi l'anno prossimo sarà un anno record nell'emissione di titoli di Stato. È là che si prendono i soldi, no? Ormai. Ti correggo, abbiamo scritto nel titolo di apertura servono almeno quella massa importante di titoli di Stato. Questo significa che ne serviranno di più. Il problema, ripeto, è dove andarli a prendere. Speriamo non nelle tasche di quei di Pantalone, che sono poi quei 100.000 italiani, pochi rispetto ai 56 milioni di abitanti che pagano le tasse. Quelle le tasse le hanno già pagate, e per carità, non voglio sentir parlare di patrimoniale, perché vuol dire bastonare chi è già stato bastonato. Semmai il problema è far pagare le tasse a chi non le paga. Spero che quei soldi non le vadano a prendere nelle tasche degli italiani già spremuti dal fisco oltre misura. Oh, se volete sapere tutto, proprio tutto su questa manovra, ovviamente c'è solo 24 ore di oggi a pagina 2 e 3, Marco Mobili e Marco Rogari con il loro pezzo Super Bonus, imprese e partite IVA con la manovra che incassa la fiducia, e poi una serie di quadratini che vi danno anche la misura, no, del livello di dettaglio nel quale si è scesi: la proroga al 30 giugno 2022 del super bonus, il bonus per finestre e ristrutturazioni che è stato prorogato, sale a 16.000 euro la spesa per i mobili, detrazione al 50%, più assegni per i disoccupati, e le aggregazioni facilitate dal fisco, e via dicendo. Quindi tanto sul fronte dell'impresa quanto sul fronte dei cittadini. Oh, nel frattempo, un po' sotto traccia, perché eravamo tutti concentrati sulla manovra, Fabio, si sta procedendo con il decreto mille proroghe. È arrivato l'ok del Consiglio dei Ministri, la consueta pratica del decreto mille proroghe c'è anche quest'anno, nel quale decreto mille proroghe entrano alcune cose interessanti e alcune cose delle quali, tra l'altro, da questi microfoni ci eravamo occupati, come la proroga dello stop agli sfratti per altri 6 mesi, che crea preoccupazione ai proprietari. Preoccupazione e anche semina straordinarie ingiustizie. Non è che tutti gli sfratti sono uguali, e invece di andare a vedere caso per caso, stabilendo delle regole giuste, si fa una maxi proroga che vale per tutti, e quindi seminerà ingiustizie, perché chi deve liberare la casa per i figli non potrà farlo, perché chi deve mandare via un inquilino che non paga, ma non perché è in stato di necessità, magari non paga perché non gli va di pagare, e anche qui dovrà tenersi l'inquilino moroso. Insomma, un pasticcio. L'impressione è che tutto quello di cui stiamo parlando abbia un'impostazione antica, e cioè siano operazioni di governo di memoria, lasciatemelo dire, democristiana. È che lì c'era anche una visione del paese, per quanto criticabile, che adesso manca completamente. È rimasta l'idea che il governo sia una sorta di Babbo Natale che distribuisce doni. Come si è visto nell'occasione precedente, alla fine il conto dovrà essere pagato. Fabio, è saltata invece al decreto mille proroghe lo stop alla ricerca di idrocarburi, che era stato ventilato inizialmente. Ieri sulle 24 ore ci ha dedicato l'apertura, l'abbiamo raccontato in rassegna stampa, abbiamo dato conto anche del pezzo di Jacopo Giliberto che rappresenta un po' le preoccupazioni di chi in Italia investe in questo settore e invece rimane bloccato. Questa è una notizia positiva, no? Ma anche in questo caso una mossa di democristiana memoria. C'è un decreto mille proroghe, a un certo punto spunta una manina e zacchete ci infila una norma di poche righe, devastante per un intero settore, di stop alle ricerche petrolifere e alle trivellazioni. Beh, insomma, se davvero si vuole andare in quella direzione, bisognerebbe fare un provvedimento organico, specifico, sì. Discuterlo, presentarlo al paese, e invece no, nottetempo una manina infila una piccola norma da dai grandi effetti su un intero settore. Beh, insomma, credo che una medaglietta al petto del Sole 24 Ore lasciatevela mettere, non solo per dovere d'ufficio, li abbiamo colti con le mani nella marmellata. Allora, Fabio, grazie innanzitutto, buon Natale. Noi ci risentiamo a gennaio dopo le feste, perché qua torniamo in diretta il 7 e se non sbaglio è proprio un giovedì, quindi Fabio, buon Natale. Come andrà a finire per quanto riguarda l'apertura delle scuole? Facciamo tutti gli scongiuri, ho l'impressione che andrà a finire male, perché ancora una volta si arriva a una scadenza così importante come un'organizzazione da armata Brancaleone. Grazie a Fabio Tamburini, nostro direttore del Sole 24 Ore, GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli.